Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, affrontando solo i fatti essenziali della vita, per vedere se non fossi riuscito a imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non dover scoprire in punto di morte di non aver vissuto. Il fatto è che non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, succhiare tutto il midollo di essa. Volevo vivere da gagliardo spartano per sbaragliare ciò che vita non era. Falciare ampio e raso terra e riporre la vita lì, in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici. Benvenute, benvenuti a tutte e tutti a una nuova puntata di Eclettismi Spaziali. Sono tropicali. Ventiquattresima puntata di Eclettismi Spaziali Sudtropicali su Radio Forte. Oggi puntata specialona, parleremo di un argomento scottante: il primitivismo è diventato il modo per scappare dalle città, le città troppo tecnologiche, troppo controllate, troppo legate alle decisioni degli altri. E siamo qui con due ospiti, parleremo di questo argomento con il primo ospite viene sta sopra al vulcano sull'Etna, DJ Ao. Ciao a tutti ascoltatori, vengo dal boschetto primodico dell'Etna. Ao stavano tutti i miei familiari, Ao stava tutta la mia tribù. Di quale tribù si tratta? Ao, prego. Non c'aveva il nome alla tribù, noi non ci abbiamo nomi, si chiamiamo Ao Ae Ae Ae. Grazie Ao, e passiamo al nuovo ospite, Sauro da Taormina, che vive in una ex smart city un po' decadente, credo. Dici, come si vive in queste città? Sì, c'è stato questo progetto di fare Taormina Smart City, bellissima, luccicante. Si è partito da pochi sensori e si è arrivato a una città dove c'erano i pattini, i volanti, e dopo il primo ponte di Messina si è passati al ponte di Reggio Calabria e poi al ponte di Capodarmi e si è unificato tutto. È stato bellissimo finché non è passato più nessuno ed è stato abbandonato tutto, quindi rimaniamo in pochi in queste case di metallo bollente. Quindi stavo pensando di trasferirmi. qui a O, che vive senza luce, senza acqua, senza niente, senza bidet, senza internet. Non so, volevamo sapere come fate a vivere nella vostra tribù. Siamo in mezzo al bosco, siamo bene, la mattina si alza col sole, la notte si va a dormire col sole, viviamo col sole. Noi viviamo il presente, viviamo a contatto con la natura, non ci stanno gerarchie, non manco parliamo per dire, c'è tutta la condivisione, noi condividiamo qualsiasi cosa e praticamente non c'è sta gente strana come qua. Oh. Dentro di me scorre il sangue di prima di Homo sapiens, che Homo sapiens è il vero virus della Terra che sta distruggendo tutta la Terra col suo antropocentrismo, che è diventato ego, riferitismo, auto, referenzialismo, della società moderna e dell'illusione della tecnologia che ti aiuta, ma in realtà ti rende schiavo, ti sei solo un oggetto, tu sei solo un città super tecnologiche, smart, che hai provato qualsiasi tipo di tecnologia sopra la pelle e sotto pelle. Cosa ne pensi della tecnologia che sta attorno a te? Credo che per me la tecnologia, quando è diventata portatile di un anello del potere, lì si è integrata completamente al vissuto. Scherzi a parte, cioè c'è una condizione di dipendenza molto forte. Questo fatto di dover tornare e guardare questo schermo come per riempire qualsiasi disagio, sempre lì pronto a darci una piccola scarica di emozioni perché leggiamo una brutta notizia per lo più o ci sentiamo inferiori a qualcun altro. Siamo bombardati da immagini e da modelli scelti da qualcun altro. Every weekend there's a new owl, fish and poi and lao lao, dangle the tune of Wally How. Then you go to town. And if you ever leave that hula town, remember Pronto? Pronto? Chi è che chiama? Sì, buonasera, sono Panfora. Grazie, grazie per essere qui con noi, è il nostro antropologo di fiducia. Volevamo una sua opinione sull'argomento. Diciamo che i nuovi studi antropologici hanno smentito tutto ciò che questa società ci vuole dire sull'uomo primitivo. Quest'uomo in realtà non era un violento, assolutamente. La violenza è entrata, diciamo, a far parte del raccoglitore cacciatore soltanto quando esso stesso è diventato preda. E non è neanche vero che questo uomo era maschilista, che la società fosse maschilista. Assolutamente è stato confutato da tutti gli antropologi dell'ultima generazione, dell'ultima ora, e ci dicono appunto che era una società invece orizzontale, basata, come ci diceva anche il nostro amico Ao, sulla condivisione e sull'aiuto reciproco. Grazie Panfora per il suo pensiero. Sappiamo che hai avuto problemi con le tecnologie, hai abusato di smart tecnologie e ora sei qui in un centro di recupero. Cosa hai imparato? Ciao, mi chiamo Sauro da Taormina, ho smesso con la tecno da 5 ore. Guarda, non so cosa ho imparato. All'inizio ero proprio attratto alla tecnologia, proprio la TV, mi mettevo là davanti, la tastiera, poi gli auricolari sempre, la musica me la portavo sempre, poi ho cominciato con gli anelli, poi arrivati gli occhiali VR e alla fine il plug. E dopo il plug non ho visto più la tecnologia, solo dinosauri nella prateria. E anche lì cercavo di essere il dinosauro più figo, mi piaceva volare, ero un apetelodattilosauro. E poi a un certo punto non si è visto più nulla, pensavo di aver perso la vista, e invece era andata via la luce, ero sul divano di casa. Non ne posso più della tecnologia, voglio smettere anche col fuoco. L'albero che ha messo i fiori, l'orto che è cresciuto, dico, ma questo è un miracolo, cioè, la vita è bella, la natura è bella, è una cosa, però non riesco a dire grazie a Dio, perché Dio non l'ho mai visto. Io vedo, appunto, ci siamo io e te, i due gatti, cioè, perché se non lo vedo e non lo sento, cioè non è solo il fatto ottico di vederlo, di sentirlo, di udirlo, non me lo, niente, io dico, la vita è una cosa bella, tutto lì. Reality and fantasy. buona notte in Italia, ovunque ti giri ti vogliono fregare. Allora ti vogliono fregare tutti, allora il meccanico che non ti mette il pezzo, il frantoio che c'ha il tubo che ti frega l'olio, no, tutti ti vogliono fregare. Allora come fai, come fai? Appena ti giri, allora che fai? Me ne vado lontano da tutti, quelli che mi vogliono fregare, no? Vado via, vado in campagna, vado da solo, vado il più lontano possibile da tutti e comincio a coltivarmi l'orto e comincio, però cazzo non ce ne ho i soldi per mettere i pannelli solari, per mettere il fotovoltaico, fare il geotermico e essere assolutamente sostenibile, compatibile con l'ambiente. Non riesco, non c'ho neanche tempo di fare tutto questo orto poi alla fine, perché io sto tutto il giorno a scrivania a fare l'informatico e non è che posso fare la permacultura, l'orto biologico, no? Allora che cosa faccio? Cosa faccio? Come si fa? Come si fa? Allora divento primitivista. Ah sì, macino a mano, scasso tutto con degli strumenti in pietra. Sì sì, mi curo con le erbette che colgo nell'orto. Sì sì sì, divento primitivista. Se l'hanno fatto loro, perché non lo posso fare io? Lo faccio anch'io, faccio io primitivista. Sometimes our life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never fail. That's why my soul I never sells. The world between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The world between reality and fantasy, sometimes so small. Chiave. L'evoluzione umana è la preoccupazione. Quella sta andando male. È incontrollabile. È sovversiva. Potrebbe condurci nei posti sbagliati. Guardate cosa è successo alla soglia del dolore, ad esempio. Il mondo è un luogo molto più pericoloso adesso che il dolore è praticamente scomparso. A che serve che solo pochi fortunati di noi provino dolore durante il sonno? Il dolore ha una funzione. È un sistema di allarme che noi non abbiamo più. E come è potuto accadere? E cosa significa? Oppure le infezioni? Le infezioni, che fine hanno fatto? Nessuno si lava più le mani. E cos'è? Cos'è quella nuova moda? Come la chiamano? Chirurgia da tavolino. In pubblico. È ripugnante. We'll be right back. workers. Yes, yes, we love animals. Free animals in the forest. We also love you. We love you. And animals. And raw fish. Anarco-primitivista, eu ia chegar nesse ponto. Essa galera é foda. Essa galera é tipo o Fred Flintstone, tá ligado? Como família assim, dinossauro. Isso é totalmente novo pra mim, qualquer ideia. Tipo, a galera do anarco... Eu também não manjo muito de Deus, não olho essa galera, mas tipo, eles pregam, tipo... têm uma rejeição à tecnologia, porque eles entendem a tecnologia como um mal do capitalismo. I'm a little tired, but you caught me at a good time. You gotta put that feeling in. I can't have everything a secret. I like a little reality. I like to meet people. I like to show them that I'm with them. I like to be a part of them. Elettrodomestici da cucina, nuovi vestiti, Nintendo, Game Boy, cazzate così. Sempre più affamati di oggetti. Me despierto, todo confuso, tengo un tapado en vez del buzo. Mi que está pasando? No entiendo nada, huelo a perfume para dama. No me quiero imaginar qué pasó, pero duele cuando me siento. Prendo el cigarro y el lápiz labial en el filtro me lleva de nuevo al momento. Toda cachonda, descontrolada, y todos los chongos divirtiéndose. Toda cachonda, descontrolada, y todos los chongos divirtiéndose. Más puedo ver mi peluca brillar y escuchar esa voz que me dice al pasar. Elevado a sueldo, vas a entregar. Colabora para atrás, colabora para atrás. Puedo ver mi peluca brillar y escuchar esa voz que me dice al pasar. Elevado a sueldo, vas a entregar. Colabora para atrás. We'll be right back. L'altro giorno ho visto una fabbrica, diciamo una fabbrica di galline da uovo ovaiole, allevate all'aperto. Non è stato molto bello, perché lo spazio all'aperto era 2 metri a fianco al capannone. A turno le galline uscivano e prendevano un po' di aria fresca, dopo 18 mesi di questa vita finiscono all'MC Donald's. Chi studia geologia sa che milioni di anni possono essere considerati un battito di ciglia per il pianeta Terra. Vorrei porre l'attenzione su quello che l'uomo ha fatto dal 45 da dopo la seconda guerra mondiale al 2022, non sono molti anni. Parlo contro il mio interesse essendo io una voce creata dall'intelligenza artificiale proprio in questo secolo. Ma forse, come dicevano i Devo, c'è bisogno di una devoluzione. giunti alla fine della puntata, sembra che l'andamento delle tecnologie ci sta portando a un primitivismo cognitivo. Perdiamo parole, ideologie. Siamo costretti a semplificare. Comunichiamo con i meme e le faccine. Ci accontentiamo dei titoli dei giornali. Ci piace stare dentro le bolle con i nostri simili, pensando di rappresentare la maggioranza. Non decidiamo più in maniera autonoma, siamo indirizzati a scegliere con o contro, mi piace o non mi piace, trascina il dito da una parte e scegli. Insomma, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma sulle cose importanti il sistema tende sempre a regolare il nostro comportamento. Quindi cosa vogliamo fare? Formiamo comunità autonome, mettiamo in modalità aereo, recuperiamo il rapporto con la natura? Sono dubbi e verità scomode su eclettismi spaziali subtropicali. Spaziali sottotropicali. Sauro, cosa ci vuoi dire prima di lasciarci? Guarda, stasera vado a dormire nel villaggio di Ao. C'era una capanna libera, non so, forse devo rifare il tetto. Però ho visto che alcuni stanno usando il fuoco, che non è che mi vada troppo a genio, quindi mi sto isolando. Grazie Sauro, un'opinione condivisibile. Salutiamo il nostro amico Ao, che è riuscito a scrollarsi di dosso tutto quello che è futile, che è inutile, che non è basilare, che non lo aiuta a stare in contatto con la sua amica natura. Ho un messaggio per tutti quanti. Ao, non rimanete schiavi. Ao, liberato, Ao. Staccatevi da ste catene. Tornate a grufolare. Guardate il cielo. Fatevi scaldare dai raggi del sole, Ao. Ci vuole poco, Ao. Ci vuole meno, Ao.